Speciale, la politica nel tunnel. Buongiorno, buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Ore febbrili, Vincenzo, per la formazione di governo. Oggi una giornata importantissima. Al Quirinale questa mattina sono saliti il Movimento 5 Stelle, la prima volta di Beppe Grillo, arrivato con il suo SUV insieme ai capigruppo di Camera e Senato Roberta Lombardi e Vito Crimi. Eh sì, è così, e poi è arrivato anche Silvio Berlusconi insieme alla Lega. Il Cavaliere ha ribadito la disponibilità per un governissimo, ma ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che era per noi al Quirinale questa mattina. Allora Alessandra, com'è andata la mattinata di consultazioni? Ah, ecco, Alessandra in questo momento è sparita, si è persa nei meandri del Quirinale. Diciamo allora soprattutto che com'è andata. Sentiamo che cosa ha detto Roberta Lombardi, che come al solito ha detto che il Movimento 5 Stelle è indisponibile a fare un governo. Sentiamo. Finora, nonostante la dimensione del successo elettorale, non è stata data alcuna rappresentanza istituzionale al Movimento 5 Stelle, non la presidenza della Camera, non la presidenza del Senato, che sono stati oggetti di contrattazione e mercanteggiamento tra i partiti e non espressione del riconoscimento della volontà popolare. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto quindi durante l'incontro con il Presidente della Repubblica un mandato pieno per potersi presentare in Parlamento, esporre il suo programma di governo che avete sentito, e chiedere il voto di fiducia. Nel caso il Presidente della Repubblica accordi l'incarico a noi, il Movimento 5 Stelle presenterà un suo candidato alla Presidenza del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle attribuisce a questa richiesta un atto di estrema responsabilità nei confronti del Paese. Se questa richiesta non venisse accolta, il Movimento 5 Stelle, come forza di opposizione, chiederà la presidenza delle commissioni Copasir e Vigilanza Rai. Questa dunque è la posizione del Movimento 5 Stelle nelle parole del capogruppo Lombardi. Abbiamo ristabilito il collegamento con la nostra Alessandra Schepisi. Allora Alessandra, questa mattina hai seguito queste consultazioni al Quirinale, in particolare quindi da Grillo è arrivata una chiusura totale a qualsiasi altro tipo di governo che non sia invece a guida proprio Movimento 5 Stelle? Sì, è così Vincenzo, la posizione del Movimento 5 Stelle è stata netta, irremovibile. I 5 Stelle rivendicano un esecutivo tutto per sé, in quanto dicono siamo la prima forza politica del paese. In realtà non è così, se si conta poi anche il voto degli italiani all'estero. I 5 Stelle rivendicano un mandato pieno per realizzare i loro 20 punti. Abbiamo sentito la voce della capogruppo alla Camera Lombardi, mentre poi Beppe Grillo ha postato sul suo blog, ha detto nessuna fiducia ad altri esecutivi, nemmeno tecnici guidati dalle foglie di fico come Grasso, e quindi di fatto ha bruciato l'ipotesi di un mandato esplorativo al Presidente del Senato. Beppe Grillo, che è arrivato al Quirinale questa mattina con largo anticipo a bordo della sua monovolume con i vetri oscurati, guidata dal suo autista di fiducia, la notizia è che è arrivato in giacca e cravatta d'ordinanza, aveva anche gli occhiali scuri, un cappotto al posto del solito impermeabile degli Izionami Tour, e con lui appunto c'erano i capogruppo di Camera e Senato Lombardi e Crimi, non c'era Casaleggio, pare che sia a letto per l'influenza, e Grillo diciamo è entrato, ha fatto un gesto curioso, ha fatto il segno dei soldi con la mano, chissà, forse alla vista dei saloni sfarzosi del Quirinale. Uscendo poi non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, molti lo hanno inseguito tra l'altro per le strade di Roma, ma alla fine il politico genovese è riuscito a seminarli. Ecco Alessandra, dopo Grillo, quindi dopo il Movimento 5 Stelle, è stata la volta del Popolo della Libertà, molto chiara la posizione anche di Berlusconi. Eh sì, il centrodestra è salito poco dopo al Colle, la delegazione del PDL e della Lega appunto sono salite insieme, il centrodestra ha di fatto confermato quanto ripetuto sin dal primo giorno, e cioè la necessità di un governo di coalizione PD-PDL, da noi ha detto Berlusconi, c'è la totale disponibilità ad un esecutivo di larghe intese perché servono azioni urgenti per l'economia. Insomma, Berlusconi che continua a corteggiare il PD, ma che nello stesso tempo mette in chiaro e inaccettabile che i democratici con il loro 30% di voti esigano di avere per sé tutte le alte cariche istituzionali. Ma allora sentiamo la voce di Berlusconi. Siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, abbiamo con lui esaminato i risultati elettorali che presentano tre forze, ciascuna di pari entità, Abbiamo naturalmente presente che una di queste forze non è disponibile a una collaborazione con le altre e quindi restano in campo le due forze rappresentate da noi e dal Partito Democratico, a cui incombe in questo momento la responsabilità di dare un governo al Paese. La situazione del Paese è una situazione di crisi profonda, c'è l'esigenza assoluta di un comportamento responsabile da parte delle forze che rappresentano ciascuna un terzo dell'elettorato. Non è assolutamente accettabile che sia una sola forza che con il 30% dei voti, che rappresentano poi in definitiva soltanto il 20% degli italiani che hanno diritto di voto, possa esigere di prendere tutto. Già il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono stati indicati come Presidente di una parte, non è assolutamente pensabile che anche per quanto riguarda il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica questa parte possa pretendere di avere tutto. E noi ringraziamo Alessandra Schepisi, diciamo anche che Piero Grasso, il neo presidente del Senato, ha detto: io premier per il mio paese sono pronto a tutto e sulla nascita del governo sono ottimista per natura. Tra un'ora salirà l'ultimo sarà Pierluigi Bersani, il segretario del PD, che insiste per cercare un governo con gli 8 punti approvati dalla direzione nazionale, ma intanto qui alla Camera si vota, Vincenzo. Sì, si stanno votando vicepresidenti e questori, la partita cruciale per il Movimento 5 Stelle è quella dei questori. Democratici appoggeranno un grillino, Laura Bottici, ma solo al Senato. Alla Camera invece il PD, oltre ai propri candidati, appoggerà un grillino alla vicepresidenza e un questore di Scelta Civica. Ma sentiamo allora quanto ci ha detto il neo capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Roberto Speranza. Noi abbiamo unilateralmente deciso in Senato e alla Camera di dare una parte dei nostri voti per eleggere un questore 5 Stelle al Senato e un vicepresidente alla Camera. Con quale logica? Con la logica che la responsabilità è di tutti, la corresponsabilità è la parola d'ordine di questa prima fase della legislatura, per cui è utile che tutti siano responsabili. Qualcuno potrebbe pensare che c'è un nesso con la formazione del governo? Ma questa è un'osservazione. Le aree di riferimento non credo che il governo sono quelle. Non credo che se parla con quelli del Movimento 5 Stelle la pensano così. Quindi è una scelta unilaterale nostra, perché riteniamo che sia molto importante la corresponsabilità. Questa mi sembra la parola decisiva di questa prima fase della legislatura. Nessuna trattativa con i grillini. Niente tavoli. C'è poi invece la questione economica, le stime al ribasso del governo con un PIL previsto a meno 1,3% nel 2013, ma ovviamente tutto questo vi informerà il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni in Focus Economia. Certo è che più la crisi si aggrava, più è necessario fare un governo per far ripartire l'economia, Vincenzo. Sì, governo ed economia che si incrociano come sempre. Tu hai sentito Elisabetta Gianclaudio Bressa del Partito Democratico, sentiamo allora cosa ti ha detto. Il Presidente della Repubblica darà l'incarico che riterrà più utile per risolvere una crisi drammatica nel Paese e chi sarà incaricato dovrà venire in aula e lì le forze politiche misureranno la loro responsabilità. Grilli oggi ha detto che il PIL nel 2013 è a meno 1,3%. Grilli ha detto questo, però è vero che se si fa un governo e questo governo fa delle misure economiche importanti, tipo autorizzare i pagamenti da parte dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e le imprese, come Confindustria ha dimostrato ieri, il PIL può aumentare di un punto percentuale all'anno e potremmo avere 250.000 nuovi occupati all'anno. Questi sono i problemi del Paese, a questo deve rispondere il Governo. Senta, uno dei programmi di Grillo invece è proprio questa decrescita felice, ma lei che cosa crede nella decrescita felice? Io credo in una Repubblica italiana che vive un momento drammatico e che ha bisogno di un governo capace di farla uscire e si esce dalla crisi creando lavoro e non creando fantasie improbabili. C'è una visione utopica della realtà? Non è nemmeno una visione utopica, è una visione pericolosa perché induce in illusioni che poi si pagherebbero a carissimo prezzo. Ma noi cercheremo i grillini, li abbiamo cercati oggi, ma stanno dentro l'aula, li continueremo a cercare, li inchioderemo su questa decrescita felice. Vincenzo, un saluto da Elisabetta Fiorito. E da Vincenzo Miglietta.